Allora, sono le 8:21 di mercoledì 14 febbraio 2024 e devo aprire questa registrazione ringraziando moltissimo Noemi Urso che ha pubblicato una video recensione veramente molto lunga e molto approfondita, non solo su Stiamo sprecando internet, l'ultimo libro che ho pubblicato lo scorso anno, ma anche alla fine ha parlato a lungo di Oltre il rumore, di Unframing, ed è davvero, fa una certa impressione avere una persona che parla per mezz'ora delle cose che hai scritto tu, in termini poi così lusinghieri, ma soprattutto anche vedere che c'è molta, molta preparazione e quel punto di vista che uno pensa di dover sempre introdurre con grandi premesse, in realtà molti di noi cominciano ad avere già, diciamo, l'hardware su cui impiantare questo pensiero, perché l'esperienza tossica quotidiana che viviamo con i media produce anche effetti neurologici, io credo, su ognuno di noi, come dimostrano svariati studi scientifici, a loro volta poi puntualmente strumentalizzati per far passare i messaggi che convengono. Tra l'altro Noemi fa parte della redazione, anzi credo che sia caporedattrice di un sito che si occupa di debunking, si occupa in generale di disinformazione, si chiama Butak, che consiglio a tutti di vedere insieme, insomma, agli altri meritori siti che svolgono questo lavoro. E visto che ha letto con profitto Unframing, quasi quasi le chiederò di introdurre, accanto a tutti i criteri molto rigorosi per definire le fake news e segnalarle, magari un sistema analogo per la fake relevance, che è, insomma, un flagello non meno rilevante. Ma oltre a questo volevo segnalare un post uscito su Rivista Studio poche ore fa. Ecco, Rivista Studio è una di quelle testate gratuite che, in larga misura, diciamo, che pubblicano cose davvero di grande qualità, a dimostrazione del fatto che in questo momento l'equazione qualità-pagamento sulla rete è quasi invertita per tanti versi. Naturalmente bisogna trovare il modello virtuoso per farlo funzionare. Comunque, insomma, questo articolo parla delle cosiddette mostre inversive, con un titolo che, diciamo, non lascia molto spazio all'immaginazione nel condannarle. E devo dire, proprio vicino al mio ufficio hanno inaugurato un paio di mesi fa una cosa che si chiama il Next Museum, che effettivamente non fa che sostanziare la tesi dell'articolo, e cioè che si spendono un sacco di soldi in delle operazioni che evidentemente garantiscono un qualche ritorno economico, perché sono comunque molto ben promosse queste mostre realizzate con sistemi di videomapping, eccetera. Il videomapping in sé è una tecnologia straordinaria, mentre è incredibile, ma anche qui alloggiata ogni tanto ci sono gli ingorghi, soprattutto la mattina. Quindi facciamo passare questi due rumorosissimi, Iveco, Scania. E no, niente, molto banalmente è incredibile che ci sia un grande fermento, una grande eccitazione del cosiddetto marketing culturale, che è quasi per me una contraddizione in termini, intorno a queste cose. Mentre pochissimo si fa banalmente per promuovere luoghi, attività dove succedono cose che si possono toccare, vivere e che hanno una dimensione relazionale. E ogni tanto questo succede negli spazi indipendenti, che però sono iniziative abbastanza estemporanee, difficile che abbiano una lunga storia. E quindi vi lascio anche con l'appuntamento, perché di questo, degli spazi indipendenti, della necessità di trovare un nuovo modo per stare insieme alle cose e farle succedere in luoghi che non inseguono il cosiddetto marketing culturale. È di questo che parleremo domenica 18, prendete nota se potete, in questo primo tentativo di Open Pendo Delirio che condurremo alle 18 di domenica prossima, quindi domenica 18 alle 18, insieme a due persone con cui di queste cose mi capita di parlare spesso, sono Marco Giovenale e Fabio Benincasa, ma con diciamo così la possibilità di intervenire davvero per tutti e quindi vi aspettiamo.